effetto notte estate. Le 18.32, ad un certo punto della stagione, a Radio 24, la notte inizia in anticipo, è l'effetto del nostro palinsesto, effetto notte-estate. Dunque, buonasera da Valeria Bernardi in regia, Valentina Ternullo e Alessandro Schirano, che sono in redazione, e da Andrea Ferro, che vi parla in studio. Da oggi e fino alla fine di agosto staremo insieme per due ore, dalle 18.30 alle 20.30, per sfogliare le pagine del diario di questa estate, di questo tema così particolare, appeso tra la voglia di ripartire e le incertezze dell'autunno che verrà. Come accade nella formula tradizionale di effetto notte, cronaca, attualità, politica, costume, spettacoli e chiaramente anche un pizzico di sport. Una specie di rotocalco impalcato sulla curiosità e la voglia di capire un viaggio in Italia e nel mondo. Oggi parleremo dell'emergenza sanitaria, dei migranti con gli sbarchi in Sicilia, le fughe in massa dai centri di accoglienza, dell'inchiesta sulla caserma dei carabinieri di Piacenza, di quella sulla fornitura di camici che a Milano vede indagato il presidente della regione Fontana, e poi di scuola, di caporalato, di smart working, e chiuderemo appunto con lo sport. L'apertura è quasi d'obbligo, l'aggiornamento sull'emergenza sanitaria. I nostri primi ospiti di questa stagione sono Pierluigi Lopalco, professore ordinario di igiene all'Università di Pisa e responsabile del coordinamento regionale emergenze epidemiologiche della Regione Puglia. Buonasera. Buonasera. E Marino Lembo, che è il sindaco di Capri. Buonasera anche a lei. Non c'è. Bene, allora, primo infortunio telefonico, proveremo a recuperarlo, evidentemente è caduta la linea. Allora, Lopalco, per il momento rimaniamo io e lei. Le notizie di oggi sono: quasi 16 milioni di casi di Covid-19 sono stati segnalati all'OMS e oltre 640.000 morti, e la pandemia continua ad accelerare. Nelle ultime 6 settimane il numero totale di casi è quasi raddoppiato, appunto lo dice l'OMS. Poi la situazione in Italia, dove si registra un netto calo dei contagi. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono stati 170, ieri erano 255. Per il quarto giorno consecutivo le vittime sono 5 e la Lombardia non registra decedute. E poi al via la fase 3 di sperimentazione clinica sull'uomo del vaccino anti-Covid-19 sviluppato dall'azienda americana Moderna con l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive degli Stati Uniti, diretto da Anthony Fauci, il quale poco fa, leggo un'agenzia, dice che sostanzialmente questo vaccino potrebbe essere pronto entro ottobre o più probabilmente entro novembre. Lopalco, ritornando ai numeri che elencavo prima, notizie sostanzialmente contrastanti, almeno a leggerle un po' superficialmente. Nel mondo va sempre peggio, da noi invece i contagi, diciamo così, restano sotto controllo. Tutto previsto, prevedibile? Abbastanza. Una pandemia non vuol dire che il virus si comporta allo stesso modo, nello stesso momento in tutto il mondo. Cioè, la pandemia è un fenomeno globale, però le ondate pandemiche non sono sincronizzate. Quindi noi abbiamo avuto un inizio che è partito in Cina, poi il virus è arrivato fondamentalmente in Europa e l'Italia ha avuto la peggio perché è stato il paese in cui è arrivato per primo, poi si è spostato nell'altro continente, il continente americano. Continente americano, ora anche Sud America, quindi ora anche in Africa, quindi capite bene che in questo giro ci sono delle ondate successive. Ecco perché oggi a livello globale siamo in piena pandemia. In Italia la prima ondata è già arrivata. Ecco, quello che succede però in Spagna, in Francia e in parte anche in Germania, poi abbiamo letto anche nelle ultime ore in Olanda, ci dice che in questi paesi le cose non vanno, tra virgolette, bene come succede da noi. Perché? Ma diciamo, questi dati ci dicono quello che noi stiamo dicendo da sempre, cioè il virus non è scomparso e basta poco perché ci siano delle riaccensioni. Ora, questi paesi, i paesi europei vicini a noi, stanno subendo in questo momento una riattivazione della circolazione virale. Come dicevo, non tutto avviene allo stesso momento, però quello che sta succedendo in questi paesi potrebbe in qualche maniera verificarsi in Italia nelle prossime settimane. qualche segnale ce l'abbiamo di, come dire, di ripresa dell'attività. La pandemia è come un incendio e dagli incendi si sviluppano sempre, no, delle faville che possono riaccendere altri fuochi. È un fenomeno globale, dobbiamo stare attenti e governarlo bene. Marino Lembo, sindaco di Capri, ora è collegato con noi e ringrazio i colleghi che hanno ripristinato il collegamento telefonico. Buonasera. Buonasera. Allora, abbiamo chiamato in causa lei, chiaramente perché Capri è stato un po' il centro dell'attenzione in questo fine settimana. Lei, diciamo così, ha adottato misure un po' più severe, o meglio, ha semplicemente imposto l'uso della mascherina anche nelle vie del centro, nella piazzetta. Com'è andata? No, è andata bene. In realtà, diciamo, questa decisione nasce dal fatto che noi in questi mesi di blocco abbiamo fatto un grande lavoro e lì si sono avuto focolai. Poi quando abbiamo riaperto abbiamo fatto in modo che tutte le aziende fossero organizzate, rispettassero tutte le ordinanze e quindi abbiamo cercato di organizzare il paese nel miglior modo possibile. Ora fortunatamente sta arrivando tanta gente, però tanta gente concentrata specialmente nel fine settimana, e poiché, diciamo, le nostre stradine sono piccole, sono strette, la piazza è piccola, cioè, abbiamo verificato insomma, importanti assembramenti. E allora noi dobbiamo, diciamo, abbiamo pensato di fare questa ordinanza perché in realtà dobbiamo tenere alto il livello della sicurezza. E poiché, diciamo, pensiamo che questa mascherina messa nelle ore però il venerdì, sabato e domenica, dalle 6 del pomeriggio fino alle 4 del mattino, perché è un'ordinanza legata principalmente, diciamo, alla cosiddetta movida, diciamo, alla concentrazione di persone, in realtà noi, insomma, e chiediamo alle persone che vengono a Capri di fare un gesto d'affetto e di mettersi la mascherina in queste fasce orarie in modo da, diciamo, stare un po' più tranquilli tutti quanti e fare, diciamo, che si godano le vacanze in maniera, diciamo, sicura. Questo è il motivo per cui abbiamo ritenuto di fare questa ordinanza. Lo palco, quello che ha fatto il sindaco di Capri, potrebbe essere imitato anche da altri sindaci in qualche modo interessati da questi fenomeni di affollamento. Io devo dire, ho notato negli ultimi tempi, non qui a Milano ma in altre parti del territorio, una certa rilassatezza. Ma quello che mi è piaciuto del racconto del sindaco di Capri è quando ha detto che facciano un gesto di affetto. Cioè, in questo momento bisogna volersi bene, e oggettivamente mettere la mascherina significa voler bene a se stessi, ma soprattutto voler bene agli altri, perché uno potrebbe essere eventualmente positivo, essere un portatore. Ecco, sindaco, prima diceva... Difende gli altri. Ah, l'avevamo persa un attimo, allora mi sono sovrapposto sulla sua voce, chiedo scusa. Sindaco di Capri... Per quanto riguarda la stagione estiva, ha detto c'è tanta gente, sostanzialmente la stagione salva? Beh, diciamo che a noi comunque mancano la clientela internazionale, che per Capri è importantissima. Noi abbiamo una grossa clientela americana da sempre, diciamo internazionale, mancano i grandi yacht, ci sono ma ne mancano altri. Però diciamo che complessivamente abbiamo avuto un dato che io ritengo positivo per tutta l'Italia, cioè che gli italiani stanno riscoprendo finalmente l'Italia, che secondo me è il posto più bello del mondo. Non lo dico perché sono italiano, perché così è. Allora diciamo, il fatto che gli italiani ritornino in Italia e si rendono conto del mare che abbiamo, si rendono conto che non c'è bisogno di andare ai Caraibi per trovare il mare che abbiamo noi, io penso sia un fatto positivo, c'è cioè un valore aggiunto in questa diciamo, situazione difficile. Perché in realtà gli italiani finalmente possono guardarsi attorno e rendersi conto che abbiamo il paese più bello del mondo. Quindi diciamo che in fondo alla fine qualcosa di positivo sta uscendo. Ecco, quindi sostanzialmente gli operatori turistici in qualche modo possono manifestare una certa soddisfazione, almeno rispetto... Si cerca di leggere, certo, in realtà si cerca di leggere, logicamente mancano... Per noi la stagione inizia la metà di marzo e finisce la metà di novembre, è chiaro che mancano dei mesi, però insomma, non ci dobbiamo lamentare, dobbiamo andare avanti. La cosa principale, vorrei sottolineare, che ogni azienda che abbiamo incentivato ad aprire ha rimesso i posti di lavoro in circolazione, perché dobbiamo pensare ai tanti lavoratori che in questo momento rischiano di stare senza lavoro, quindi ogni cosa che si fa per far lavorare le aziende, noi facciamo lavorare le persone che hanno bisogno di aver lavoro, altrimenti la situazione diventa difficile. Beh, è un quadro confortante, un quadro che induce buone speranze, non solo chiaramente per l'isola di Capri, ma un po' anche per il nostro paese. Come dicevo in apertura, è un'estate un po' sospesa in questo sentimento. Da una parte la vitalità, la voglia di riprendere, di ripartire, dall'altra c'è l'ansia per quello che potrà essere in autunno, questa famigerata seconda ondata di ritorno. A questo proposito, lo palco, alla luce delle cose che ci siamo detti prima, cambia la previsione rispetto a questo pericolo? Ma ancora non è possibile fare previsioni di lungo periodo, è impossibile, perché noi non abbiamo non conosciamo a fondo il comportamento di questo virus. È la prima volta che noi osserviamo una pandemia da coronavirus, per cui è davvero un po' complesso fare previsioni di lungo periodo. Certamente una ripresa della circolazione virale ci sarà. Ora, come poi questa ripresa di circolazione si manifesterà nel senso di impatto sul sistema sanitario, quindi di ondata, come si suol dire, è tutto da vedere, perché anche dipenderà molto da come saremo in grado di governare questa ripresa di circolazione. Lo palco, resti con noi, ci fermiamo per la viabilità e poi proseguiamo a parlare di emergenza sanitaria. Effetto notte estate. Le 18:44 e 44 secondi. Marino Lembo, sindaco di Capri, so che ci deve salutare. Io la ringrazio per essere intervenuto questa sera a Effetto notte estate. Buona estate. Grazie. Bene. Grazie sindaco. Allora, abbiamo ora in linea, mi confermano, una collega romena, Giulia Sandra Virsta. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera, con noi in linea c'è sempre il professor Lo Palco, professore ordinario di igiene all'Università di Pisa. Chiamiamo in causa la collega che è corrispondente, leggo per Graiulo, e poi ci sono altre testate, ma chiedo scusa, non mi avventuro in pronunce improbabili, no? Sì. Allora, dicevo, la situazione in Romania è una delle situazioni in questo momento più critiche, più drammatiche. Leggiamo che si tratta di uno dei paesi che in questo momento registrano un maggior numero di contagi, chiaramente in proporzione alla popolazione. Che notizie arrivano dal suo paese? Allora, per ora abbiamo, nelle ultime 24 ore, abbiamo 1104 nuovi casi di SARS-CoV-2. Fino adesso sono stati 45.902 casi di persone contagiati, malati di Covid, di quale 25.794 guariti, 3.440 asintomatici che sono stati esternati, cioè mandati a casa dopo i 10 giorni dell'ospedale. La cosa che trovo, ecco, i morti fino adesso sono, cioè dall'inizio della pandemia, sono 2206. Ieri, cioè nelle ultime 24 ore, tra ieri e oggi, fino all'una, sono stati 19 morti, di quali 11 uomini e 8 donne. Però la cosa, diciamo, interessante è che solo uno è stato trovato malato di Covid, gli altri avevano anche altre malattie. Lo Palco, perché in Romania e Bulgaria c'è stata questa esplosione di casi? In fondo non parliamo dell'Australia, non parliamo dell'Oriente, parliamo di paesi relativamente vicini all'epicentro del focolaio europeo primaverile. Sì, questo fenomeno si è sviluppato in diversi paesi, sia del centro-est Europa che dell'area balcanica. In Albania c'è una situazione abbastanza simile, ovviamente numeri più bassi perché è una popolazione molto, molto più piccola, però il picco si sta verificando proprio in questi giorni. Probabilmente questo è dovuto al fatto che in questi paesi si è operato da subito un forte controllo e un forte lockdown, quindi sono paesi in cui il virus non è entrato nella fase in cui invece è entrato più liberamente nei paesi dell'Europa occidentale, ma che poi dopo le riaperture hanno subito appunto una sorta di, come dire, ondata di ritorno, se così possiamo chiamarla. E il principio che dicevamo all'inizio, cioè la pandemia è un fenomeno globale, cioè è impossibile, come dire, riaprire un paese senza sperare che il virus non ci arrivi. Ecco, tornando a parlare con la collega Giulia Sandra Virsta, c'è il problema per molti vostri connazionali che queste settimane dovrebbero tornare in Italia per lavorare, penso alle Bodanti. Ricordiamo che la comunità romena in Italia è in assoluto la più numerosa, conta 1.200.000 persone. Ecco, avete notizie di problemi di queste persone? C'è qualche storia che tu hai raccolto in queste ore, in questi giorni? Sì, alcuna sì, però vorrei magari agganciarmi a quello che ha detto il professore. Ecco, sì, il problema è che, come succede diciamo in tutti gli altri paesi che sono stati dopo l'Italia in lockdown, è che non riescono a capire che devono fare attenzione, che devono portare la mascherina, che devono tenere la distanza sociale, ecco. Invece da noi, siccome sono due campane, chi dice che non esiste il virus o che già è passato, chi invece dice ma chi se ne frega, allora fanno qui a Naviglia hanno fatto l'aperitivo, invece da noi fanno delle feste, matrimoni, e allora figuriamoci che tutti questi ultimo boom di ammalati anche per questa cosa. Speriamo che ormai si sa da adesso che hanno la possibilità i sindaci delle regioni, anche dei vari paesini, se la situazione e il numero è molto alto, di dire proprio di fare il lockdown locale. Ecco, anche i quartieri hanno dato mano libera e questo va benissimo. In che riguarda le badanti e non solo, penso anche ai braccianti, non vuol dire che loro sono malati, ma il problema è che adesso non potranno uscire per tornare in Italia. E questo è il problema. Qui faranno certo 15 giorni, no? O 14 giorni, però io mi chiedo, cioè ci si chiede, ma hanno pensato al ministero qui in Italia, dove se quella badante ha l'unico domicilio dove può andare a casa della persona che la cura, come si farà? Cioè dove farà lei la quarantena? Magari dovranno, non lo so, mettere a disposizione un albergo o qualcosa, anche se non sono malate, perché non credo che siano così, diciamo, cretini di andare nella folla quando si parte dall'Italia, che si sa i problemi che ci sono stati qui, no? Per tutti i mesi che siamo stati in casa, non credo che andando in vacanza in Romania sono andate in giro a prendersi il virus, ecco. Però dobbiamo pensare, se loro ritornano e non hanno una casa, come fanno? Cioè, oltre dove lavorano, abitano insieme alle persone, no? In Italia, come si fa? Cioè, che cosa potranno fare? Hanno pensato a questo? E c'è anche l'emergenza per chi viene assistito da queste persone, comunque per chi... Appunto, certo. Perché l'unico posto dove può è al domicilio e a casa delle persone, cioè se sono badanti fisse, parlo di quelle fisse, che non abitano, diciamo non dormono a casa loro, poi vanno in giornata. Devono pensare anche a come procedere con queste che sono fisse, ecco, le badanti fisse, cosiddette fisse. Lopalco, vaccino, prima parlavo, notizie abbastanza confortanti, addirittura pronto a ottobre o comunque a novembre. In realtà sono settimane, sono mesi che un giorno arriva una notizia confortante e poi il giorno dopo una che invece spegne un po', tra virgolette, l'entusiasmo. Ecco, come siamo veramente rispetto alla possibilità di avere un vaccino efficace in tempi brevi? Ma sicuramente non dobbiamo correre dietro agli annunci, perché insomma capite bene che un annuncio così come con un comunicato stampa non ha un valore scientifico, dobbiamo vedere i dati pubblicati. Fino ad ora sono stati pubblicati dei dati molto interessanti e molto confortanti su diversi vaccini, almeno un paio. Abbiamo sentito appunto che il vaccino cosiddetto americano, no? Il vaccino di Fauci, è entrato in fase 3, quindi dobbiamo aspettare di vedere pubblicati i dati della fase 3. Perché è la fase dell'efficacia, la fase in cui vedremo anche la tollerabilità di questo vaccino, quindi è una fase molto delicata della sperimentazione. Una volta che leggeremo i risultati, allora potremo fare delle previsioni più precise su quando potrà essere effettivamente sviluppato su larga scala, perché non dimentichiamo che una volta che è finita la sperimentazione, poi il vaccino bisogna produrlo. Un vaccino non è che si produce in un mese, cioè produrre centinaia di milioni di dosi richiede un certo tempo. E poi bisogna anche somministrarle. Oltre che distribuirle e somministrarle, ovviamente. Torniamo idealmente in Romania. Giulia, il vostro sistema sanitario è in grado di gestire questa emergenza? Per ora sì. La cosa buona è che sono tantissimi, cioè quasi il 90% sono degli affetti, degli malati, hanno una forma leggera o asintomatici, ecco. E aspettando il vaccino servirà che l'80% della popolazione dovrà passare, camminare dentro la malattia per immunizzarsi, ecco. E per ora non ci sono, abbiamo pochi ricoverati, sono ricoverati ora 6.876 con Covid e solo 353 in terapia intensiva, ecco. A livello nazionale sono stati fatti 1.110.534 test e nelle ultime 24 ore sono state fatte 7.574, e di quale 2.697 test a richiesta. La cosa buona è che, diciamo, chi vuole stare tranquillo può anche chiedere, però certo a pagamento. E ciò avviene in tempi anche abbastanza brevi? Sì, 2-3 giorni, 4 giorni al massimo, ecco. Lo palco. Una buona prova di efficienza. Ma sicuramente sono dei dati confortanti, e soprattutto confortante il rapporto fra i casi asintomatici e i casi ricoverati, quindi probabilmente è interessato dal contagio una popolazione più giovane, con un'età media più bassa, e sappiamo che in una popolazione più giovane ovviamente la malattia si esprime, grazie al cielo, con una intensità e una gravità più bassa. Migranti, lo palco, ora si parla tanto del pericolo che può arrivare dagli sbarchi, dalla Tunisia. In realtà si dice anche che queste persone, una volta che arrivano sul territorio nazionale, sono subito sottoposte a rigidi controlli sanitari, quindi paradossalmente sono più a rischio tutti gli altri, no? Ma io penso che quelli siano proprio i più controllati, sono quelli che non sfuggono dai controlli. In Italia ogni giorno, attraverso i nostri confini, via terra, via mare, via cielo, ma arrivano migliaia e migliaia di persone, non sono certamente quelle poche decine di migranti clandestini a poter spostare i numeri di una pandemia. Quindi lei intravede il rischio, diciamo, di una generalizzazione, anche magari strumentalizzazione per altri fini, che può provocare anche, poi voglio dire, indurre anche qualche problema di troppo su questo fronte? Ma vabbè, è il solito problema, diciamo, di distrarre l'attenzione su problemi che poi, una volta analizzati in termini numerici, ci si rende conto che sono davvero dei problemi residuali. Insomma, parliamo, io conosco la mia regione, noi ogni giorno in Puglia abbiamo in questo momento migliaia di persone che entrano in Puglia per turismo, per lavoro, e provengono da altre regioni d'Italia ma anche da altri paesi, quindi insomma non è certo l'autobus con qualche migrante a bordo controllato, tra l'altro, che ci fa paura. Allora, sono le 18:56 e 30 secondi, sta per incombere il GR delle 19, che questa sera sarà condotto da Vincenzo Miglietta. Chiudiamo questa prima pagina, per così dire, di effetto notte-estate di questa puntata d'esordio, e ringrazio così gli ospiti: Pierluigi Lopalco, professore ordinario di igiene all'Università di Pisa e responsabile del coordinamento regionale emergenze epidemiologiche della Regione Puglia. Grazie, buona serata. Grazie a voi. E ringrazio la collega Giulia Sandra Virsta, corrispondente per Graiul, si dice così? Sì. Ah, bene. Allora, sono riuscito a dirla bene. La ringrazio, ti ringrazio, e magari abuseremo della tua collaborazione anche nei prossimi giorni per avere un aggiornamento su quello che succede appunto in Romania. E allora, come dicevo, incombe il GR delle 19, noi ci risentiamo intorno alle 19:12, 19:13, e torneremo a parlare insieme, questa volta di migranti. Essere avere quest'estate diventa Guida Galattica per consumatori. 5 puntate speciali per esplorare presente, passato e futuro delle nostre abitudini di spesa. La guida ha già soppiantato l'Enciclopedia Galattica come indiscussa depositaria di tutta la conoscenza e la saggezza per due importanti ragioni. Primo, costa un po' meno. E secondo, reca la scritta Don't Panic, niente panico, in grandi e rassicuranti caratteri sulla copertina. Il mondo dei consumi, oggi più che mai, ha bisogno di punti fermi. Sono Maria Luisa Pezzali e vi trasporterò in una galassia fatta di prodotti e brand, storie entrate nell'immaginario collettivo. Essere e avere. Guida Galattica per consumatori. Vi aspetta il sabato alle 13.30 e la domenica alle 16. Su Radio 24. E in podcast su radio24.it. Siamo nella testa di un professionista. A sinistra, il problema dell'acquisto di un nuovo veicolo. Ma è meglio aspettare ancora. A questo punto ci pensiamo dopo l'estate. A destra, guarda che i contributi scadevano il 31 agosto. Cosa? No! Non sempre si può tornare indietro. A luglio e agosto Volkswagen Veicoli Commerciali offre 6 milioni di euro di contributi sui veicoli in pronta consegna. Se te li fai sfuggire, perdi fino a 6.000 euro di vantaggi su Transporter e il service plan incluso se attivi il leasing. Info su volkswagenveicolicommerciali.it. Da MediaWorld tornano gli Apple Days con iPhone 11 64 giga a soli 699 euro o in 20 rate da 34,95 euro. Dal 27 al 31 luglio scopri tantissimi prodotti Apple a tasso zero. MediaWorld, fatto apposta per me. Messaggio pubblicitario, informazioni negozio salvo approvazione della finanziaria. Effetto notte estate. 19:12, Andrea Ferro in studio, Valeria Bernardi in regia, in redazione invece ci sono Valentina Ternullo e Alessandro Schirano. Prosegue Effetto notte estate, la puntata d'esordio, come dicevo prima del GR delle 19, proseguiamo il nostro diario del giorno parlando di sbarchi e di migranti. Abbiamo per così dire una raffica di sindaci collegati. Roberto Gambino, sindaco di Caltanissetta, non c'è ancora. C'è Ida Carmina, sindaco di Porto Empedocle, invece è collegata con noi. Buonasera. Buonasera, buonasera. C'è Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa, non ancora, partiamo da lei, ma è giusto partire da lei perché oggi questo è stato il comune, diciamo così, il territorio più gravato da un'emergenza, la fuga in massa di migranti dalla tenso struttura della protezione civile. Poi poco fa abbiamo saputo dalla ministra Lamorgese che buona parte dei fuggitivi è stata rintracciata, così? Guardi, io non ho ricevuto comunicazioni ufficiali. Noi sindaci purtroppo siamo, come dire, gli ultimi, sembra che siamo i traditori della patria, gli ultimi a sapere le cose, come il marito tradito è l'ultimo a sapere delle corna della moglie, diciamo. Beh, è un po' curioso che non veniate informati, sì, sì, visto no, che... non veniamo informati, noi lo abbiamo detto anche al Comitato Schengen, io ho ripetuto questa richiesta più volte, anche perché noi siamo responsabili autorità sanitaria locale del territorio, quindi ci dovrebbero informare. Io non so se c'è questo gap, questo tipo di scollamento istituzionale. Evidentemente, visto che lei... Sì, perché ritengo che la prima dovrei essere informata di questa cosa, dovrei essere io che sono il sindaco e che tra l'altro rispondo dinanzi ai miei cittadini, perché poi non se la prendono con chi è lontano, a Roma o altrove, i miei cittadini impaleranno me, che poi in realtà non sono responsabile di tutta questa situazione, perché da tempo io penso che le cronache sono piene, metto in evidenza determinate cose sulla gestione che non va, perché noi oggi abbiamo subito la fuga di tutte queste persone. Ecco, ci racconti cosa è successo, quando è successo, cosa le reazioni in paese? Guardi, io stamattina sono stata convocata d'urgenza alla prefettura perché forse loro stessi non immaginavano di avere questa emergenza di circa, di dover allocare oltre 500 persone in una tenso struttura, tra l'altro fatta stile Lamierino, lei può immaginare a 45 gradi che abbiamo qui sud del sud, una splendida giornata di sole per chi va al mare, ma per chi sta in 500 in una struttura piccola, 100 persone con le finestre chiuse, neanche attrezzata, con l'ASP che dichiara che non ci sono le condizioni igienico-sanitarie, tutto questo è abbastanza pesante. Io proprio ho detto chiaramente le mie opinioni in prefettura, ritenendo anche che questa gente avesse il diritto all'aria, proprio di questo si tratta. Evidentemente, piuttosto che morire soffocati, hanno preferito fuggire una parte di loro. Quindi quando io esplodo poi e dico venite a vedere, perché l'accoglienza va fatta con determinati criteri, con determinati crismi, questa situazione non avrà esiti positivi, andremo veramente, io sono preoccupatissima se non si adottano misure straordinarie, cosa che io dico da metà marzo, quindi c'era tutto il tempo, perché non si può reagire ad una situazione così straordinaria con gli strumenti ordinari, quindi il trasporto con i traghetti di linea, improvvisazioni su dove allocare i migranti, si fa una scelta di campo, una missione militare di pace in Italia, perché noi stiamo facendo innanzitutto la guerra al Covid, qua abbiamo sempre accolto, siamo per l'accoglienza, per salvare le persone che sono in mare e tutto quanto, però altresì dobbiamo tutelare il diritto alla salute e alla vita dei nostri cittadini, e siccome questi scappano perché si hanno affrontato il mare, non hanno nessuna remora a saltare il muretto della recinzione di un albergo o qualsiasi altra cosa, che vengano diciamo utilizzati strumenti adeguati. E così fare dei ponti aerei direttamente da Lampedusa, magari il Lazio dove c'è la Cecchignola, l'ospedale militare e tutto quello, strutture adeguate, e lasciare un po' di respiro a noi qui in Sicilia, che non ne possiamo più. Ecco, parlava di Lampedusa il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, è collegato con noi, buonasera. Buonasera. Allora, com'è la situazione da lei? È stato un fine settimana abbastanza tormentato, no? Stanno incominciando, diciamo, a fare diminuire il numero all'interno dell'hotspot. Siamo oggi intorno a 600 persone. Quindi speriamo che non ci sono sbarchi nella nottata. Domani ci dovrebbero essere altre partenze. Si spera tra domani e dopodomani di ridurre il numero all'interno dell'hotspot. Lei aveva detto se non si fa qualcosa, se il governo non dichiara lo stato di emergenza, qualora la situazione dovesse precipitare, lo farò io, addirittura con la popolazione blinderò praticamente il mio territorio. Lei è pronto eventualmente ad entrare in azione in questa maniera qualora si determinassero le condizioni? Assolutamente sì, solo che mi è stato comunicato che fra qualche giorno arriverà una nave dove farà il carico, diciamo, su Lampedusa, per mantenerli a bordo per osservare la quarantena e poi trasferirli sulla terraferma. Ida Carmina, sindaco di Porto Empedocle, che state sul suo territorio? L'altra volta ho sentito una sua dichiarazione, diceva le spiagge sono quasi vuote. Sì, purtroppo è così, perché appunto noi non abbiamo vissuto solo questa emergenza di oggi, ma praticamente da noi hanno deciso lo sbarco dell'ONG con i 30 infetti della Sea-Watch. Appena è stata diramata questa notizia, noi siamo andati su tutti i tabloid nazionali e internazionali come zona rossa, focolaio, eccetera, quindi hanno immediatamente disdetto tutte le prenotazioni. La gente giustamente in vacanza, quelli che se la possono permettere, vuole stare tranquilla, quindi noi abbiamo delle bellissime spiagge, un posto splendido, siamo a contagi zero come comunità grazie ai sacrifici di tutti, eppure la gente non viene perché magari non si sente pienamente tranquilla con questi continui sbarchi, queste situazioni. Cioè, ma lei davvero umanamente verrebbe in vacanza dopo che sono scappati 120 migranti? Noi non siamo, cioè abbiamo... Francamente io verrei, però questa è una questione personale. Sì, i miei concittadini dicono speriamo che non ci sia di questo, letteralmente, ora i social dicono speriamo che nessuno di noi venga a infettarsi o i nostri bambini vengano a infettarsi a seguito di questa fuga, perché se no veniamo sotto casa. Cioè, ma io dico non lo so, qua... la gente si è rovinata, è fallita economicamente, sacrifici enormi, che comprenderà che poi per scelte insomma anche opinabili certe volte, subire una cosa del genere Io so che il sindaco di Lampedusa, perché è uscita la polizia con la notizia, il sindacato di polizia, sulle questioni che riguardano anche la sicurezza dei poliziotti, dicendo che c'erano 25, che poi erano 33 test sierologici positivi, che poi invece i tamponi sono stati negativi, già insomma si è parecchio risentito. Figuriamoci noi che abbiamo un'immagine davvero, insomma, per fortuna c'è qualcuno che la pensa come lei, però chiaramente per chi vive di questi mesi estivi per tutto l'anno, diciamo, perdere la stagione è un danno enorme. La fotografia Lampedusa, Martello, qual è sotto il profilo chiaramente della stagione turistica? Noi abbiamo incominciato, diciamo, ad avere un po' di turisti. Non abbiamo i numeri di l'anno scorso, però c'è una leggera ripresa c'è. E come diceva poco fa la mia collega, il discorso è vincolato alla sicurezza sanitaria, anche perché le notizie, anche le notizie false, viaggiano in un modo impressionante nell'arco di poco tempo. Praticamente si assistono a delle rinunce a venire sull'isola e via discorrendo. Quindi l'obiettivo è quello, quando io parlo che bisogna fare funzionare il sistema, è sulla sicurezza che devono avere da un lato i migranti che arrivano dal punto di vista sanitario, che i trasferimenti vengono fatti dopo che tutti ricevono il tampone, prima sierologico e poi se c'è qualcuno che è positivo anche con il tampone fino a faringeo, per dare la sicurezza ai cittadini che comunque non provocano contagio nei confronti dell'opinione pubblica. Tutta questa campagna pubblicitaria che viene fatta, giustamente la gente è terrorizzata. Perché un problema così serio viene visto e affrontato solo dal punto di vista politico, non viene affrontato con le responsabilità che ognuno di noi dovrebbe avere all'interno di ogni apparato istituzionale. Ecco Martello, a proposito di politici, in questo caso parliamo anche di un ministro, il ministro degli esteri Luigi Di Maio, nel pomeriggio, a proposito dell'emergenza collegata agli sbarchi, ha detto: qui è una questione di salute pubblica, il virus non è scomparso, i cittadini italiani come il sottoscritto naturalmente devono continuare a rispettare le regole che ci siamo dati, vale lo stesso per i turisti o per chi ha diritto alla protezione internazionale. Evidentemente in qualche modo dice quello che state dicendo voi, ma il governo c'è, l'Europa non proprio, direi, no? No, assolutamente l'Europa non esiste, in tutto questo ragionamento non abbiamo nessun sintomo di Europa. Cioè, quello che riusciamo a fare da noi stessi, e poi per il resto è tutto lasciato praticamente all'abbandono. E ritorno a ripetere lo stesso concetto: e le regole devono essere uguali per tutti, perché non ci può essere distinzione su un problema che riguarda la sanità e la salute pubblica. C'è una seconda cosa: bisogna intervenire su ogni argomento che riguarda la sanità in maniera celere e non aspettare praticamente le calende greche perché si svolga un bando di gara o si aggiudica che si fa un provvedimento per una nave che deve trasportare persone sempre in sicurezza. E poi c'è bisogno anche della serietà da parte di ognuno di noi. Che non si possono creare falsi allarmismi quando poi alla fine uno non solo non è documentato, ma che addirittura lo fanno solo ed esclusivamente per creare scompiglio e per creare possibilmente una lotta politica, dove poi alla fine chi paga sono i cittadini. Ecco, come abbiamo sentito nel GR delle 19, oggi c'è stata la missione in Tunisia della ministra dell'interno Lamorgese, che ha detto, oltre a riportare la notizia che appunto i migranti fuggiti dall'hotspot di Porto Empedocle erano stati quasi tutti rintracciati, ha detto che la situazione sanitaria è sotto controllo, tutti i test sierologici sono risultati negativi e così i tamponi fin qui eseguiti sui migranti sia a Porto Empedocle sia a Lampedusa, grazie all'impegno specifica profuso dalla regione siciliana. E poi, a proposito appunto della missione in Tunisia, ha detto che l'Italia è pronta ad offrire pieno supporto alla Tunisia anche mediante formule più efficaci di collaborazione nell'attività di sorveglianza delle imbarcazioni dei trafficanti in partenza dalla costa africana. Ecco, c'è chi dice che la Tunisia è un nuovo fronte pronto ad esplodere, come addirittura l'Albania nel 1991. Ida Carmina è preoccupata. Certamente non sono buone notizie queste. È evidente che ci fosse qualcosa di strano in questo notevole afflusso di tunisini, perché non c'è uno stato di guerra. Tutto sommato la Tunisia ha sempre avuto, insomma, margine di tranquillità rispetto agli stati del Nord Africa, mentre adesso l'85% di immigrati che arrivano sono tunisini. Tra l'altro anche circolano voci che non so quanto siano della serie, hanno aperto le carceri, stanno mandando, cioè situazioni che destano un allarme sociale grandissimo nella popolazione. Quindi speriamo che questa missione abbia buon frutto. Evidentemente dietro l'accesso al canale Sicilia ci sono ragioni di geopolitica che sfuggono al nostro, alla nostra competenza da sindaci. Anche il ministro Di Maio, che ha espresso solidarietà nei nostri confronti, e lo ringrazio, evidentemente è andato in Libia di recente proprio per vedere, di dipanare un po' queste vicende. Quindi è lì il fulcro della questione, perché se partono poi qualcuno li deve accogliere. E appunto entrano in scena, in gioco, in azione i sindaci. Salvatore Martello, sindaco di Lampedusa, lei si sente solo? No, volevo dire una cosa su questo discorso dell'accordo. Prego. Che è stato fatto ora in Tunisia. Allora, il discorso del nostro ministro degli interni funziona se il governo tunisino fa rispettare alle motovedette e alle forze dell'ordine che operano a mare praticamente le cose che sono state dette dal presidente o dal ministro con chi si è incontrato. Perché molte volte succede, ma ci sono anche dei video, delle registrazioni, che sono le stesse vedette tunisini che accompagnano i barchini al di fuori delle acque tunisine per farli entrare nelle acque internazionali. Ora, che cosa voglio dire? Non è vero che non ci sono problemi in Tunisia, ci sono problemi politici, e mi auguro che questo accordo venga rispettato anche da parte di coloro i quali dovrebbero collaborare e lavorare per cercare di non far arrivare le imbarcazioni su Lampedusa. Ecco, l'ho chiesto un flash. Lei si sente solo come sindaco, come rappresentante sostanzialmente della sua comunità? Io a volte leggo queste agenzie in cui voi lanciate un grido quasi disperato. No, io devo dire che da parte del Ministero degli Interni ho ricevuto molta collaborazione e loro hanno profuso anche molto impegno. Però ci sono delle cose che è difficile, perché la percezione che c'è a Roma è diversa da quella che abbiamo sulle isole, e quindi i ritardi nell'attivare alcune procedure fanno dire a noi sindaci che siamo da soli. Però, come si dice, un impegno c'è da parte delle istituzioni nei confronti di Lampedusa nel caso specifico. Cosa invece che non vedo, l'attenzione particolare da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché su un argomento così importante che il problema delle migrazioni non solo non si fa sentire, non solo non dice una parola, ma addirittura si dà l'impressione che quasi su questo argomento bisogna stare lontani, non affrontarlo e non toccare con mani questo problema che è molto delicato. Grazie Salvatore Martello, mi perdoni se la interrompo, ma dobbiamo rispettare un cronoprogramma abbastanza rigido. Lei è il sindaco di Lampedusa, la ringrazio per essere intervenuto questa sera Effetto Notte Estate. Buonasera. A voi, buonasera. Ida Carmina, sindaca di Porto Empedocle, grazie anche a lei, chiaramente buonasera anche a lei. Buonasera. La borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento effetto notte estate. Alle 19.33, quasi 34, torna effetto notte estate. Vi ricordo anche le possibilità per intervenire in questa trasmissione. Numero verde 800 24 00 24, per SMS e WhatsApp 349-238-6666. Ora parliamo di smart working e lo facciamo con Anna Maria Furlan, segretaria generale della CISL. Buonasera. Buonasera a voi. E con Rosario De Luca, che è il presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Buonasera De Luca. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, smart working, lo spunto arriva dalla stampa. Oggi ha aperto il giornale con appunto questo argomento. Il titolo a pagina 2: rivoluzione smart working, l'Italia travolta dal lavoro, troppe le ore davanti al PC. L'85% vuole continuare a distanza, ma preoccupano i carichi eccessivi. E poi c'è qualche dato: sono ora 1,8 milioni, secondo fonti del Ministero del Lavoro e di Confesercenti, i nuovi lavoratori smart working, e sono 8 milioni gli italiani che secondo l'Istat potrebbero lavorare da casa. E c'è anche poi un dato di carattere economico: 250 milioni al mese è la perdita per i pubblici esercizi e ristoranti, visto che la gente appunto mangia a casa e non mangia nei bar, nei ristoranti, o comunque non mangia appunto nei locali. Allora, Furlan e De Luca, io vi faccio la stessa domanda, un po' banale però abbastanza ricorrente: con l'avvento chiaramente forzato dello smart working, siamo veramente ad un punto di svolta della serie nulla sarà più come prima, Furlan? Beh, in effetti lo smart working in altri paesi, anche in molti paesi europei, è un modo consolidato di lavorare. Noi l'abbiamo più che altro scoperto durante l'epidemia, quindi è stata una scoperta un po' forzata, e in realtà molti lavoratori, molte lavoratrici che per mesi hanno esercitato lo smart working, in realtà hanno esercitato più semplicemente un lavoro delocalizzato nella propria abitazione. Lo smart working significa in modo molto più forte partecipazione, il fissare obiettivi comuni, lavoro di squadra, quindi siamo ancora distanti da realizzare un vero smart working, però sicuramente dei passi avanti in questi mesi, anche se a causa della pandemia, sono stati fatti. È ovvio che adesso dobbiamo contrattualizzare meglio lo smart working, definirlo meglio, definire anche quali tutele, ovviamente riservare ai lavoratori, alle lavoratrici che esercitano il lavoro attraverso questo modello. Quindi si apre dentro la contrattazione, io credo, una stagione anche molto interessante, molto innovativa rispetto a tutto questo. Penso al privato, a tutto il privato, ma penso anche al tanto lavoro pubblico che può essere fatto di smart working, come si è dimostrato in questi mesi. Quindi vedo una partita positiva che possiamo aprire, facendo però un salto di qualità, definendo davvero il lavoro agile, lo smart working, come un processo di partecipazione condivisa del lavoratore, della lavoratrice, un passo avanti rispetto all'innovazione di cui le nostre imprese pubbliche e private hanno assolutamente bisogno. De Luca, è d'accordo con Furlan? Ma io più che altro vorrei precisare che in questa pandemia non è che ci sia stato tutto lo smart working, c'è stato home working, cioè abbiamo spostato i lavoratori dall'azienda a casa, il che non vuol dire fare lavoro agile, perché spesso sono mancate anche le attrezzature che invece dovrebbero essere in dotazione, perché hanno magari condiviso con la moglie, con il marito, con i figli che facevano lezioni da scuola a distanza, manca l'organizzazione, ci vuole quel salto culturale, sono d'accordo, perché qui dobbiamo certamente dimenticare l'idea che abbiamo invece come dire, vissuto in questi mesi, che lo smart working sia questo, cioè il trasferirsi da l'azienda a casa e proseguire con le stesse modalità. Non è così, bisogna andare su un altro tipo di cose, sia da parte del datore di lavoro, che deve certamente abbandonare l'idea di avere il collaboratore, il dipendente, tra virgolette, sotto controllo visivo, no? Cioè, quindi cambiare un po' l'approccio culturale, ma anche quello del dipendente. Cioè, bisogna uscire anche da quella che è la logica dell'essere legati all'orario, che spesso per i dipendenti è un qualcosa di più di negativo, perché magari significa anche essere sempre recuperabili, rintracciabili, quindi c'è comunque il tema del diritto alla disconnessione. Voglio dire, i temi sono ampi. Io in generale vi dico però che non credo che si possa pensare di impostare l'attività lavorativa soltanto sullo smart working. Magari una formula mista, visto che... Esattamente, certamente è una buona modalità che può... voi dovete pensare che in queste settimane, in questi mesi, noi stiamo avendo smart working, o meglio home working, obbligatorio per il distanziamento sociale, perché le regole imposte per la gestione della prevenzione in azienda dal contagio hanno ampliato gli spazi a disposizione di ogni dipendente, riducendo quindi la possibilità di ospitare tutti i dipendenti contemporaneamente, quindi si fanno turni, quindi al di là di quella che è stato, come dire, l'obbligo da lockdown di stare a casa, oggi siamo in presenza anche di una situazione ancora straordinaria da questo punto di vista. Però secondo me il lavoro in team, sì, è vero, siamo nel 2020, alcune attività possono essere svolte certamente anche a distanza, ma una buona formula mista, io continuo a pensare che possa essere la soluzione migliore. Furlan, il rischio c'è? Lo smart working può aumentare le disuguaglianze? Ma guardi, intanto in questi mesi si è preso atto di una cosa. Paghiamo a caro prezzo il fatto che non tutto il paese ha quelle vie fondamentali di comunicazione smart che sono indispensabili. Quando diciamo interventi importanti sulla banda larga, significa esattamente questo: collegare tutto il paese. Questo vale per lo smart working e ancora più chiaramente vale per la scuola. Tanti ragazzi, tante ragazze, tanti bambini, tante bambine non hanno potuto nei mesi del lockdown usufruire della didattica a distanza perché non collegati. Quindi interventi forti nelle infrastrutture immateriali, formazione dei lavoratori e delle lavoratrici, un modo assolutamente diverso di lavorare. Il dottor De Luca diceva una cosa assolutamente vera: lo smart working si fa in equip, si fa lavorando per obiettivi e ha una caratteristica assolutamente di flessibilità di cui il lavoratore e la lavoratrice possono usufruire, cosa che in questi mesi in moltissimi casi non è avvenuto. Credo che il tutto debba essere affidato alla contrattazione, anche perché è vero che tutti i lavori non si possono fare smart working, ed è altrettanto vero che laddove invece si possono realizzare, a seconda della tipologia del lavoro e del settore, hanno sfaccettature completamente diverse. Quindi è la contrattazione, io credo, il binario giusto anche per definire meglio e caratterizzare meglio questa tipologia di lavoro. De Luca, non c'è il rischio anche che ci sia un po' una divaricazione delle condizioni tra pubblico e privato, che lo smart working possa essere così interpretato in maniera molto diversa tra i due ambiti? Questa, come dire, questa è una un tema che c'è al di là dello smart working, no? Noi sappiamo che il settore privato in qualche modo, come dire, invidia, no? Se possiamo usare questo termine, alcune prerogative, alcune caratteristiche al settore pubblico. Quindi sì, diciamo che le esigenze del pubblico sono certamente spesso diverse da quelle del privato. Il pubblico è fatto per lo più di amministrativi, per lo più di uffici, per lo più comunque di attività stanziali che meglio si coniugano con il lavoro a distanza, anche se lì, ripeto, l'ho accennato prima, abbiamo pagato moltissimo il fatto di non avere, concordo pienamente, una rete, una banda, una cablatura, comunque un paese moderno e competitivo da questo punto di vista, ma anche attrezzature che molto spesso anche i dipendenti pubblici hanno dovuto utilizzare attrezzature proprie di casa. Sì, il divario si rischia che si accetti. Sì, la contrattazione può essere certamente un luogo dove compensare un po' tutte cose, ma lo ripeto di nuovo perché è proprio rafforzativo, non è una ripetizione, è rafforzativo. Ci vuole un salto culturale, perché non basta andare a casa per avere un efficace rapporto di lavoro smart working. Grazie. Allora archiviamo anche questo capitolo del Diario del Giorno dedicato appunto allo smart working, e ringrazio quindi gli ospiti che hanno trattato questo argomento con noi, appunto Anna Maria Furlan, segretaria generale della CISL. Grazie, buonasera. Buonasera. Oltretutto lei è ligure, sono ore abbastanza emozionanti a Genova, in questo momento si iniziano, per così dire, le molto emozionanti. Il pensiero va alle vittime e alle loro famiglie, non c'è ombra di dubbio che per ogni genovese, ma credo che per ogni italiano, insomma, la prima cosa che viene in mente è esattamente quello, il pensiero per chi non c'è più e per le famiglie che hanno subito un lutto così profondo. Ecco, spieghiamo che è in corso il concerto, è in corso perché che veramente ho introdotto l'argomento ma non sono stato un buon cronista, non ho spiegato perché c'era riferimento su Genova, e ai piedi del ponte è in corso un concerto dell'Accademia di Santa Cecilia, appunto per celebrare la rinascita, per così dire, di questa infrastruttura. Ma come diceva lei, il primo pensiero deve essere rivolto alle 43 vittime spezzate quella mattina del 14 agosto 2018. Grazie ancora Anna Maria Furlan, e ringrazio chiaramente anche Sergio De Luca della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Grazie De Luca. Grazie a voi. E allora proseguiamo con il racconto della giornata e parliamo delle inchieste che sono un po' al centro dell'attenzione, al centro delle cronache. Iniziamo dall'inchiesta sulla, diciamo così, famigerata, possiamo usare questo aggettivo, famigerata stazione Levante dei Carabinieri di Piacenza. Ne parliamo con Giorgio Lambri, che è il capo cronista della Libertà. Libertà è il giornale di Piacenza. Giorgio, buonasera. Buonasera a voi. Allora, innanzitutto 1883. Prego? È il giornale di Piacenza del 1883. Grande, grande. Beh, no, questi fogli provinciali sono poi, voglio dire, il senso del giornalismo pieno. Io ho lavorato a lungo nei giornali di provincia e con orgoglio lo voglio rivendicare. Allora, raccontiamo quello che è successo oggi sotto il profilo appunto della cronaca giudiziaria. Hanno sentito il maresciallo comandante della stazione, mi pare. Sì, è stato sentito il maresciallo Orlando, che asseritamente avrebbe avuto un ruolo addirittura di secondo piano rispetto al brigadiere Montella. Lui ovviamente si è difeso dicendo che nella... L'hai promosso, appuntato, non era ancora... Appuntato, scusami. Figurati, sto ironizzando. Ha detto che nella sua lunga carriera non ha avuto mai una sanzione. In effetti c'è da dire che questa stazione dei Carabinieri Levante si trova, per chi non lo sa, a Piacenza, in una zona molto problematica, la zona della stazione ferroviaria, il cosiddetto quartiere Roma, che è una zona di ampissimo spazio ed è stata la prima ad essere attraversata, colpita negli anni Ottanta dal problema droga. E per molti anni, in effetti, questa piccola caserma è stata davvero un avamposto contro la droga, contro l'eroina che falciava molte vite, soprattutto negli anni Ottanta e Novanta. Ed è stata anche poi tante volte premiata. La svolta si è avuta negli ultimi anni con il cambio appunto del gruppo di gestione di questa caserma, che dipende dalla Comando Provinciale della Compagnia Carabinieri di Piacenza, e questo ovviamente chiama in causa tutto il discorso dei controlli che probabilmente non sono stati eseguiti sul comportamento di questi militari, che era un comportamento che era un po' noto probabilmente da un certo punto a questa parte. Dal 2017 c'è stata questa escalation di episodi che però evidentemente sono stati trascurati, oppure, come parrebbero indicare alcune delle intercettazioni, immolate comunque al fatto di fare tanti arresti e quindi di aumentare. Beh, quest'ansia della statistica che pervade, ahimè, molti uffici di polizia giudiziaria: sono più bravo perché faccio più arresti di te. Addirittura leggevo nelle intercettazioni che c'era la competizione all'interno delle varie strutture territoriali dell'arma per dimostrare l'efficienza appunto a suon di numeri. Ma sì, assolutamente sì. Poi c'è questo discorso della linea di confine. C'è una linea di confine oltre la quale un tutore dell'ordine non deve andare. Sappiamo chi ha fatto la nera, io l'ho fatta 20 anni prima di fare il capocronista, sa benissimo che capita tante volte che un investigatore di polizia o dei carabinieri, come dire, molli un piccolo spacciatore sbarattando la libertà con il fatto di prendere il grande spacciatore. E fino a lì ci si ma può non stare. Prendere la droga, però. Esatto, certo, quello che poi se si va oltre, qui si è andati ampiamente oltre secondo l'ipotesi accusatoria, anche se adesso vedo che ieri il difensore di Montella sostanzialmente ha detto che lui era più che altro uno sbruffone, che queste cose se ne vantava, ma in realtà la mamma addirittura ha detto che probabilmente aveva vinto il Superenalotto. Insomma, c'è tutto un quadro che è abbastanza... E aveva vinto evidentemente anche tanto, perché aveva un parco auto non da poco, però sarà poi chiaramente l'inchiesta, sarà un processo, non è il caso chiaramente in questa sede di arrivare già a delle sentenze. Giorgio, però io sono curioso di capire come Piacenza sta vivendo, intendo la città sta vivendo, è passata ormai quasi una settimana dagli arresti, telegraficamente ti chiedo di renderci l'umore, il pensiero della tua città. Ti posso dire che questa è una città che è stata dal punto di vista percentuale, cioè rispetto agli abitanti, quella più colpita dal Covid, più di Bergamo ad esempio, cioè una città che ha pagato un tributo di vite umane enorme e che quindi stava cercando di risollevarsi da una situazione drammatica. Abbiamo avuto quasi mille morti, sono tanti per una città che ne ha 100.000, e svegliandosi da questo incubo si è precipitato in un altro incubo, perché ovviamente per questa città il fatto di avere un episodio come questo è doppiamente grave, perché tenete conto che Piacenza è sempre stata ai vertici delle classifiche nazionali per le denunce di reato, cioè i piacentini hanno gli anticorpi per queste cose. Questo è un dato interessante. Sì, sono naturalmente ostili all'illegalità, è una popolazione che ha sempre avuto un grande senso della giustizia e della legge, e quindi trovarsi improvvisamente calati in questa gomorra, come l'ha chiamata uno dei protagonisti, è stato veramente un colpo davvero durissimo non solo per i cittadini ma anche per tanti appartenenti all'arma. Ti posso dire che io ho sentito degli ex militari dell'arma, ufficiali, sottufficiali, che hanno lavorato anche in passato presso questo caserme, eccetera, che io conosco, e sono distrutti, perché dicono, sai, il lavoro di tanti anni, i sacrifici, il voler comunque mantenere sempre un profilo adatto, consono ai carabinieri, a quella che è la figura del carabiniere, poi calpestato da questa notizia. E questo è anche un rischio sociale, che ci sia appunto la delegittimazione della divisa, chiaramente poi galoppano le strumentalizzazioni in queste situazioni. Giorgio Lambri, capocronista della Libertà di Piacenza, io ti ringrazio per questo affresco della città e chiaramente anche per gli aggiornamenti sulla vicenda giudiziaria, grazie e buona serata. Complimenti a Radio 24 e alla mia radio, e sono contentissimo di aver potuto avere la possibilità di interloquire con voi. Ho più volte ribadito che le critiche alle mie azioni di governo e alle mie scelte politiche sono legittime, anzi doverose, purché tengano conto della verità. Non posso tollerare che si dubiti della mia integrità e di quella dei miei familiari. Il mio coinvolgimento, se di coinvolgimento si può parlare, è quello qui illustrato, nulla di più, nulla di meno, se non il fatto conclusivo che Regione Lombardia non ha speso un euro per i 50.000 camici. Avete sentito la voce di Attilio Fontana, il presidente della Regione Lombardia. Qualcuno mi ha bacchettato, non si dice governatore, si dice presidente, è vero, però diciamo così è un po' un sinonimo usato a livello giornalistico, talvolta anche per evitare le ripetizioni. In linea con noi, inviata di Radio 24, Raffaella Calandra. Buonasera Raffaella. Buonasera Andrea, ciao a te e ai nostri ascoltatori. Allora Raffaella, che giornata è stata sotto il profilo di questa inchiesta? Mi pare che diciamo la notizia stia appunto nelle dichiarazioni di Fontana. Sotto il profilo della cronaca giudiziaria non c'è stato granché. Sotto il profilo della cronaca giudiziaria è una fase interlocutoria, nel senso che si stanno raccogliendo materiali e diciamo anche proprio dalla cronaca giudiziaria arriva una, sia pur diciamo ridotta, smentita anche alle dichiarazioni del governatore, anche io uso l'espressione governatore, il presidente della regione Lombardia Fontana, perché tra le varie cose che Fontana ha detto in aula ha riferito di essere stato informato il 12 maggio di questo contratto, di questa fornitura onerosa, cioè dietro pagamento, che la società del cognato aveva avviato, di questo negozio, come l'ha definito, che aveva avviato con la centrale acquisti della regione il 12 maggio. In realtà, interrogato dai PM, l'ormai ex direttore generale di quest'area acquisti ha detto di aver informato già due giorni prima, il 10 maggio, la segreteria di Fontana. Ma al di là delle due date c'è una questione di fondo, ecco, noi non abbiamo nessuna ragione diciamo per mettere in dubbio quello che il presidente Fontana ha con tanta, dal suo punto di vista giustamente, veemenza sottolineato nel fatto di non volere in alcun modo volere che ci siano dubbi sulla sua integrità, però di sicuro ci sono delle ombre e ci sono delle opacità anche rispetto alle versioni che stesso ha dato. Lui oggi in aula ha informato, ha detto di essere stato il 12 maggio informato di questo negozio esistente e avviato tra la società del cognato e l'area acquisti della regione. In realtà le sue prime dichiarazioni sono state, la prima in assoluto, di non sapere nulla della vicenda, la seconda che si trattava soltanto di una donazione, di cui tra l'altro tra gli atti e tra le informazioni raccolte in procura a Milano non risulta alcun atto, diciamo, che faccia che attesti diciamo l'esistenza di una donazione, se non quella mail che ad un certo punto sarebbe stata inviata proprio dalla società del cognato, in cui dice di trasformare questa vendita in donazione. Insomma, ci sono tanti passaggi poco chiari che meriterebbero in qualche modo quantomeno non un susseguirsi di versioni così diverse. Il presidente oggi ha spiegato come una sua iniziativa personale quella bonifico da 250.000 euro che ha tentato di fare al cognato, ha detto perché era rammaricato dal fatto che la società del cognato rischiava di essere danneggiata proprio dai rapporti nei suoi confronti, visto che invece altre quattro società ugualmente si erano riconvertite per produrre materiale e dispositivi sanitari. Ecco, però anche su questo non è stato così, diciamo, non ha dato quantomeno tutte le informazioni. Di sicuro ora la sua posizione è un po' più complessa perché è indagato per un reato che il suo avvocato Jacopo Pensa ha definito fumoso, cioè quello di frode in pubbliche forniture, però di sicuro ha una posizione un po' più complessa rispetto a quella di qualche settimana fa. Insomma, Andrea, ci sono dei punti sicuramente ancora da chiarire rispetto a questa vicenda, che è stata tutto un susseguirsi di dichiarazioni, di passi indietro, passi avanti, cioè non lineare come spiegazione, ed è per questo che intorno a questa vicenda adesso c'è poi tutta la bagarre politica con la mozione di sfiducia 5 Stelle, proposta, sì. Proposta dai 5 Stelle, Italia Viva, quindi il gruppo di Renzi, si è sfidato, ha detto di essere rimasto soddisfatto dalle dichiarazioni di Fontana, che la questione è ancora troppo iniziale, quindi per questo non la sottoscriverà. Il PD fa sapere che invece la sta valutando, quindi quello poi è il piano politico, che a questo punto si sta intersecando strettamente con tutte le polemiche che già nelle settimane scorse c'erano state intorno alla gestione dell'emergenza Covid in Lombardia, e che adesso ovviamente sono acuite ulteriormente inevitabilmente dal diretto coinvolgimento del governatore leghista. Grazie Raffaella Calandra per la tua consueta chiarezza. Ci fermiamo qui, poi ritorniamo a breve con Effetto Notte Stadio. Effetto Notte Estate. Alle 20, come ormai consuetudine, con Effetto Notte Estate, consuetudine chiaramente che si riferisce alle precedenti edizioni, alle estati scorse, facciamo il punto sulle notizie del giorno, è sostanzialmente un breve GR. Allora, iniziamo dalla fuga in massa di migranti dall'attenso struttura della Protezione Civile allestita nella banchina di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Polizia e Carabinieri hanno avviato le ricerche dei fuggitivi e, come abbiamo sentito anche poco fa, buona parte di loro sono stati rintracciati. Nella tenso struttura, con una capienza massima di 100 persone, c'erano 520 migranti. Netto calo dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono stati 170, ieri erano 255. Per il quarto giorno consecutivo le vittime sono 5 e la Lombardia non registra deceduti. Non posso tollerare che si dubiti della mia integrità e di quella dei miei familiari. Così ha parlato Attilio Fontana nell'aula del Consiglio regionale dopo le indagini che lo vedono coinvolto per la fornitura di camici da parte della società del cognato. Fontana ha mentito, si dimetta, dicono i 5 Stelle. Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Piacenza il maresciallo Orlando, comandante della stazione Levante dei Carabinieri, durante l'interrogatorio di garanzia. Il maresciallo ai domiciliari è accusato di falso, arresto e perquisizione illegale, abuso d'ufficio, tutti reati commessi in concorso con gli altri carabinieri. Svolgimento dei test sierologici per tutto il personale scolastico in concomitanza con l'inizio delle attività didattiche e test a campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica. Avverrà su base volontaria, quanto prevede la bozza del protocollo d'intesa tra MIUR e sindacati. La ministra Azzolina ribadisce il 14 settembre si ritornerà a scuola. È stata rinnovata di altri 45 giorni la custodia cautelare di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, da oltre 5 mesi in carcere in Egitto per propaganda sovversiva. L'orso M49 è nuovamente fuggito dal recinto del centro faunistico del Casteller a sud di Trento. Questa volta M49 avrebbe divelto la rete elettrificata. È stato già localizzato in un'area del Monte Marzola. Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa dice non deve essere abbattuto. E alle 20.03, 10 secondi, parliamo di scuola. In qualche modo ne abbiamo parlato già con le notizie a proposito della conferma della ministra, parte della ministra Azzolina, che appunto il 14 settembre si ritornerà tra i banchi. E tra i banchi oggi è andata la nostra Maria Piera Ceci. Buonasera. Ciao Andrea. Ciao, allora sei stata in un polo dell'innovazione. Allora, sì, ecco, sì, raccontaci sì, un po', perché mi ha mandato un messaggio. Scuola. Voglio raccontare questa storia, sono molto curioso. Sì, la voglio raccontare perché ovviamente la preoccupazione è generale, preoccupazione fra le famiglie, preoccupazione fra gli insegnanti, fra forse gli studenti un po' meno, insomma, e li lasciamo alla loro, così, alla loro incoscienza e preoccupazione di tanti presidi, perché insomma le cose da fare sono tantissime, l'abbiamo sentito, insomma ci sono ancora molti margini di incertezza, però in tutto questo quadro un po' sconfortante e anche un po' di grande preoccupazione da parte di tutti, in realtà ci sono delle scuole che si stanno organizzando e davvero anche molto bene. Siccome ne ho visitata una, mi sembrava interessante raccontarla, certo, questa esperienza, certo. Perché tiriamoci un po' su, come dire, in questa estate. Allora, sono andata al Savoia Ben in Casa di Ancona, che fa parte del nucleo di scuole delle avanguardie educative. Sono scuole molto innovative, che già da anni lavorano sull'innovazione. Per loro la didattica a distanza, diciamo, non è stata una grande difficoltà, e soprattutto sono molto innovative sia nella didattica a scuola in presenza sia nell'arredo scolastico. Ovviamente oggi non c'erano i ragazzi, come è ovvio che sia. Erano al mare, beati loro. E invece la preside, un insegnante di italiano, mi hanno portato in giro per la scuola. Si tratta di un liceo scientifico, istituto tecnico e un liceo linguistico, due plessi attaccati. E sono davvero rimasta molto colpita perché è una struttura davvero bella. È una struttura molto colorata, è una struttura curata nei minimi particolari e è una cosa che stupisce, perché insomma abbiamo tutti i figli a scuola, tutti insomma bene o male abbiamo in famiglia insegnanti o che cosa, insomma i racconti non sono particolarmente felici, le scuole sappiamo sono piuttosto fatiscenti, e questa non lo è affatto, curata nei minimi dettagli. Loro seguono una didattica molto particolare, quella degli ambienti dell'apprendimento, cioè l'insegnante è fisso in un'aula, quindi c'è l'aula, non so, di inglese, faccio un esempio, c'è l'aula di inglese, l'insegnante è fissa lì, sono gli studenti che girano fra le varie classi e i vari ambienti di apprendimento. Quindi l'insegnante può in qualche modo nella sua classe ricevere gli studenti e approntare l'ambiente per la didattica che intende utilizzare. Questo è molto interessante perché è molto buffo che oggi ho postato alcune foto di questa scuola, perché davvero mi ha stupito molto e mi faceva piacere condividere questo stupore positivo con chi mi segue sulla mia pagina. Ahia, eccoci. No, in realtà non è che siano arrivati moltissime critiche, però sono arrivati centinaia. No, ti sentiamo un po' a scatti, Piera, per quello che ti stavo interrompendo. Magari proviamo nel frattempo, io mi sovrappongo sulla linea, magari nel frattempo migliora. Ecco, questo è un esempio virtuoso, positivo, ma perché non può essere, non dico ovunque, ma prevalente in questa situazione? Non c'è più Piera Ceci. Ci sei? Io ci sono. Ah, mi eccoci. Senti? Sì, ora ci sentiamo. Okay. Evidentemente c'era qualche problema telefonico. Io non mi sono mossa. Bravissima. Beh, sai come funziona. Lo so. Allora, dicevo che gli insegnanti ricevono gli studenti nelle loro classi. Questo è un dettaglio che non lo è affatto, però è un dettaglio, perché ogni insegnante, scegliendo il proprio metodo didattico, può anche avanzare le proprie istanze alla preside. Una preside molto illuminata, una dirigente scolastica, Alessandra Rucci, davvero molto appassionata. Le brillavano gli occhi quando mi faceva vedere la sua scuola, ed è sempre una cosa bella, insomma, no? Vedere l'orgoglio di una dirigente scolastica che è riuscita nel corso degli anni a costruire un ambiente nel quale i ragazzi stanno volentieri. Lei dice: io a un certo punto del pomeriggio inoltrato li devo buttare fuori quasi, perché stanno bene, vogliono restare lì, stanno insieme, possono studiare insieme, eccetera. E qui vengo al nodo della questione, perché sappiamo che uno dei tanti dibattiti che si sono accesi in questa estate è stato quello della famosa sedia le rotelle. È questa benedetta sedia con le rotelle. Lì c'è. Quindi l'ho provata, a me è sembrata comoda, è chiaro che sono stata seduta 5 minuti, quindi insomma non hai messo il freno, hai messo il freno. No, non l'ho messo, però insomma non ho fatto autoscontri, quelli che si temono. Che cosa dire di questa sedia? La dirigenza scolastica mi ha spiegato un po' di cose che secondo me sono interessanti. Allora, da un lato non è vero che siano pericolose, ma stiamo parlando di ragazzi ovviamente delle scuole superiori, quindi non sono affatto adatti ai più piccoli, possono essere utilizzate nei licei o comunque negli istituti di secondo grado superiori. i ragazzi si presume che siano un po' maturi e che soprattutto siano sorvegliati. Detto questo, non sono buoni per tutte le scuole, non sono utili per tutte le classi, sono utili in quegli ambienti appunto nei quali l'insegnante ha bisogno di quelle sedie. La dirigente scolastica su questo è stata molto chiara: non sono adatte a tutti i metodi didattici, deve essere l'insegnante, come accade in questa scuola, che le richiede, dice: io nella mia classe le voglio perché così i miei studenti si possono aggregare e disgregare nei gruppi. Chiaramente quest'anno la situazione è un po' più complessa perché sappiamo che questi movimenti non sono molto graditi all'interno delle classi per dove deve essere garantito. Ecco, ma secondo te sociale. Torneranno in classe, Piera? Cioè, questa scuola, allora, al di là di quello che dice la ministra, dobbiamo dire che ne ha dette parecchie in questi ultimi mesi, ecco, secondo te la conferma alla luce di tutte le problematiche delle quali leggiamo sui giornali, sentiamo la radio, in TV, ecco, ma secondo te... Allora, a me oggi ti ha aperto il cuore, chiaramente. Però ragionando da cronista con la freddezza... La dirigente scolastica mi ha detto: no, il 14 settembre non fa affatto paura, lo credo. Lì no, all'innovazione forse. da 13 anni, quindi è chiaro. Io ho un po' paura, te lo confesso. Ma un po' tutti, però sono anche molto fiduciosa, nel senso che a mio parere si tornerà sicuramente in classe, perché su questo la ministra è stata chiara e credo che sia davvero intento e desiderio di tutti noi, che siano genitori, insegnanti, dirigenti scolastici. C'è davvero bisogno che i nostri ragazzi tornino a scuola, perché quello che hanno passato non va bene. La didattica a distanza ha tappato dei buchi, ma insomma non può essere la norma. C'è tutta la componente della socializzazione che è troppo importante perché i nostri figli continuino a perderla. Sono assolutamente d'accordo, siamo tutti d'accordo. Piera, scusami se irrompo sulle tue parole. 20:11, il tempo da dedicare stasera alla scuola termina qui, però noi ci aggiorneremo, visto che il tema della scuola di qui appunto al 14 settembre sarà il tema centrale del dibattito, sia nei bar, sia in politica, sia alla radio, sia in televisione. Grazie per questa testimonianza, per questo contributo, e alla prossima, Piera. Ciao Andrea, buona serata. Grazie. E ora parliamo di caporalato. Era il 13 luglio del 2015, in un'estate caldissima nelle campagne di Andria, moriva di fatica Paola Clemente. Era bracciante, lavorava in modo disumano per pochi euro l'ora. Un anno dopo, il 18 ottobre del 2016, la Camera approvava definitivamente la legge per il contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura. Nel nome e nel segno di Paola Clemente, 50 braccianti pugliesi e lucane, fino a ieri vittime di sfruttamento, da domani saranno coinvolte nella prima filiera bioetica contro il caporalato dedicata alle donne. Il progetto Donne Braccianti contro il Caporalato è frutto dell'intesa tra l'Associazione Internazionale Anticaporalato NOCAP, il gruppo Mega Mark di Trani e Rete per la Terra. Francesco Pomarico è presidente di ABA Biomediterranea, buonasera. Buonasera, io non sono di Ababio, ma sono di Megamark. Allora chiedo scusa, evidentemente mi è arrivata una nota, ho citato tante associazioni e chiedo scusa. Allora, cosa succede domani? Allora, domani abbiamo la presentazione ufficiale di questo grande progetto. Voi la state comunicando in anteprima, siete i primi media che comunicano questa cosa qua. E domani incontriamo la stampa e partiamo direttamente con la produzione. Abbiamo 50 donne braccianti del Puglia Basilicata che inizieranno il loro lavoro dignitoso finalmente. Hanno fatto già la visita medica, hanno tutta l'attrezzatura di dispositivi di protezione individuale, finalmente hanno un bagno, perché per i maschietti è facile andare in bagno, ma per le femminucce è abbastanza umiliante doversi nascondere dietro un albero. Invece loro finalmente hanno anche il bagno chimico sui campi, hanno un pullman che le trasporta e poi hanno una paga giusta, una paga oraria giusta, faranno 6 ore e mezza a testa. Cioè quello che sostanzialmente dovrebbe avvenire. Quello che dovrebbe essere la norma per tutti, perché appunto poi sotto di questo e non parliamo più di esseri umani, ma parliamo di... Ecco, mi faccia una fotografia della situazione del caporalato in questo momento in quest'area del paese. In Puglia, in Basilicata è un fenomeno molto molto presente, è un fenomeno che coinvolge migliaia di persone, ci sono dei ghetti che fanno veramente paura, ci sono dei ghetti che ospitano più di 5-6 mila persone, quindi in condizioni disumane, senza acqua, senza fogna, senza anche cibo, quindi è veramente una grande piaga per il nostro territorio. Per questo la mia azienda, insieme a NoCap e a Rete per la Terra e ad Ababio, che è questo fornitore che si è messo in discussione, abbiamo deciso di portare avanti un progetto che inizialmente è partito con 150 uomini dei ghetti del Foggiano, e adesso approda nel sud della Puglia e nella parte anche confinante con la Basilicata, con questo progetto legato comunque al mondo femminile. Quindi sono donne braccianti che prima erano, diciamo, coinvolte in questo sistema balordo. Francesco Poramico, direttore operativo Gruppo Megamark, grazie per essere intervenuto. Effetto notte estate, buona estate. Grazie a voi e buon lavoro. Effetto notte estate. E in chiusura non può mancare il riferimento allo sport, al calcio, ultima settimana di campionato e oggi festeggiamo il nono titolo, la nona sinfonia della Juventus. Dario Ricci, buonasera. Buonasera Andrea, ben ritrovato. Grazie. Allora, che noia, che barba, che noia, sempre la Juventus. Alla fine non c'è il rischio che non abbia neppure granché sapore uno scudetto così vinto sistematicamente? Beh, però questo è il primo scudetto che la Juventus vince a sua insaputa. Se mi è concessa se mi è concesso il riferimento, tra l'altro, a personaggi liguri a te noti e a molti noti. In realtà è presto spiegata la battuta, nel senso che il titolo è arrivato, ma certo non nel modo in cui ci immaginavamo a inizio campionato. Però è arrivato, però scusa se ti interrompo, chiaramente siamo un po' al bar in questo momento, ci stiamo rilassando verso la fine della trasmissione. Infatti, però sì. Voglio dire che c'è il lockdown, non c'è il lockdown, c'è Allegri, c'è Sarri, però poi alla fine finisce sempre alla stessa maniera. Tu cerchi giustamente da cronista di trovare uno spunto particolare, però poi il risultato è quello. Beh, credo che se c'è un pregio, tra i tanti difetti che pure questa Juventus comunque vincente ha, è questa indomita volontà di vittoria. E per questo forse questo è ancora di più lo scudetto di Ronaldo, no? Perché pure Ronaldo, tu lo sai bene, quante volte ne abbiamo parlato, off record, non è certo il mio campione preferito, ma... però se incarna una cosa, oltre alle sue indubitabili doti tecniche, è questa volontà di vittoria che è più forte di tutto, no? Anche degli stessi difetti, non tanto del giocatore quanto dell'orchestra, dell'insieme. Quindi credo che questo alla fine, questo scudetto è frutto soprattutto di questo, insomma, e forse ha sintetizzato bene col suo taglio ironico, col suo paradosso, dalla battuta di Sarri, no? Che ha detto nello spogliatoio ieri, dice: beh, se avete vinto pure con me, o diciamo malgrado me, siete davvero forti. Ecco, sicuramente c'è stato questo cortocircuito tra la società, l'allenatore e la squadra, che però si sono trovati uniti nel voler vincere, e quindi questo è proprio uno scudetto della volontà. E gli altri, tutti gli altri, Dario, però alla fine il campionato è fatto di 20 squadre, ora chiaramente possono competere per il titolo solo alcune, però sistematicamente non c'è il competitor che poi tiene un po' sulla corda la Juventus. L'idea è che poi alla fine ci sia anche quasi un po' una rassegnazione, sono i più forti, vinceranno sempre loro. Questo è stato un po' il film. Ora certamente il Napoli ha dato un po' di filo da torcere nelle scorse stagioni, però poi alla fine la superiorità risulta sempre. Adesso abbiamo visto comunque un Inter che, tra l'altro lo dicono anche i numeri, no? È sicuramente una squadra in crescita. Il Napoli ha avuto questa crisi di rigetto rispetto ad Ancelotti, e tanto bene pure aveva fatto vedere in molte occasioni con Ancelotti. L'Inter appunto è squadra sicuramente in crescita sotto la guida di un Conte che deve stare attento a non bruciare il cappone, perché insomma è un fuoco che usa sempre i fuochi al massimo e quindi probabilmente a volte rischia anche di scottarsi. Vediamo un po' quello che sarà il nuovo Milan, no? Ma io credo che all'orizzonte c'è forse la sfida più affascinante, no? Perché ce la ritroveremo protagonista sicuramente anche in Champions, ma che io credo che il prossimo potrebbe essere anche il campionato in cui l'Atalanta potrebbe finalmente entrare nel ruolo di contendente per il titolo, perché la rosa c'è, l'allenatore c'è, la qualità c'è, la profondità anche della rosa c'è, potrebbe anche non mancare molto, e quel bagliore che si vede nell'occhio di Gasperini ogni volta che si nomina la Champions mi fa pensare bene per questa incredibile Champions d'agosto. Staremo a vedere. Dario, ti interrompo perché lo smart working è stato indubbiamente l'argomento più gettonato, tanti messaggi, anche tante richieste di intervento. Noi, giusto per dare spazio a un ascoltatore a nome di tutti gli altri, Federico da Forlì, buonasera. Buonasera. Allora, lei in qualche modo così è l'interprete di tutte le persone, il testimone di tutte le persone che avrebbero voluto intervenire sullo smart working. Cosa ci dice? Sì, io vorrei andare oltre analisi di aspetti positivi, negativi, campi di applicazione che secondo me sono stati trattati in maniera molto profonda e giusta dai due ospiti che erano in studio prima. Io avevo telefonato per esprimere un punto che mi era saltato alla mente in questo periodo. Da tempo i politici cercano delle soluzioni per far riprendere l'economia al sud con varie strategie, e quello che ho pensato è che lo smart working poteva essere invece una grande via per riportare ricchezza, cultura, salute al sud. Mi spiego. Tanti giovani, tante persone sono costretti ad abbandonare la loro terra dopo aver completato gli studi e recarsi al nord per trovare appunto lavoro, perché magari certo anche se chiaramente è un discorso di prospettiva interessante, anche se temo non immediatamente applicabile. Beh, in realtà non saprei, perché ancora non sappiamo in inverno cosa andremo contro, e comunque questa situazione ci ha dato la possibilità di valutare che e anche comunque da casa le persone devono essere produttive, se non più produttive, e quindi si potrebbe iniziare a pensare appunto a introdurre queste figure lavorative in pianta stabile dentro l'azienda, quindi sostituire dentro l'azienda 10 dipendenti in smart working continuo, e con la possibilità appunto poi magari di recarsi in sede nel caso in cui vi siano appuntamenti. Beh, certo, però è chiaro che se uno sta a Palermo andare poi ogni tanto a Milano non è semplicissimo, però a Milano, comunque in qualsiasi altra città. È un affitto a Milano. Certo, no, non c'è dubbio, è chiarissimo il suo ragionamento. Io la ringrazio per il suo contributo, la sua testimonianza, diciamo così, la sua proposta. Federico da Forlì, buonasera, ritorniamo con Dario Ricci, ritorniamo così su argomenti un po' più leggeri, ritorniamo a parlare di calcio. Ecco, ora cosa resta ancora in ballo? C'è il secondo posto, poi c'è la zona retrocessione, anche se con tutto il rispetto mi sembra che Lecce abbia ormai un piede in Serie B, no? Sì, direi che le tue genovesi hanno fatto un figurone quest'anno e hanno inserito su Lecce. Non mi ricordo se tu sei sampdoriano. No, non ricordo neanch'io, però sono stanco. A farti fare outing, ma... Sono sampdoriano, ci mancherebbe, io non ho problemi a dirlo, però non credo che sia una notizia fondamentale per gli ascoltatori. È stata una bellissima stagione per la Doria di Ranieri. Ma, direi che l'unico verdetto è proprio quello della zona retrocessione, e poi c'è questo secondo posto che comunque economicamente conta qualcosa. Vedremo quanto Inter, Atalanta, la stessa Lazio in linea teorica vorranno in qualche modo giocarselo sul serio. È interessante notare, e chiudo Andrea, però, che il quarto posto potenzialmente ancora rappresenta un pericolo per chi lo occuperà, perché in caso di vittoria della Champions League da parte del Napoli e dell'Europa League da parte della Roma, Ebbene, la squadra che arriverà al quarto posto retrociderà in Europa League. Quindi questo è un motivo in più per la Lazio, che molto probabilmente chiuderà al quarto posto, per non tifare Roma in Europa League. Quindi è un derby che si ripeterà, seppur a distanza. Certo, sì, io ero, sono un po' distratto, diciamo così, da quello che accadeva nei bassi fondi della classifica, e quindi non ho seguito molto quello che invece sì, avveniva questo, un po' più in alto. Questo quarto posto che è comunque ballerino, anche se chiaramente a Napoli e la Roma giallorossa faranno gli scongiuri, è abbastanza improbabile, no? Che beh, sì, guardando la classifica, però, sì, però certo, però, insomma, può accadere di tutto. Napoli e la Roma sono in corsa per vincere queste coppe, visto che sarà un'edizione così strana. Molto strana, che racconteremo, peraltro racconteremo quest'agosto insieme qui a Effetto Notte Estate. Grazie Dario Ricci, le 20:26:35, il tempo a nostra disposizione finisce qui. Io ringrazio Valeria Bernardi in regia, Valentina Ternullo e Alessandro Schirano che mi hanno assistito amorevolmente in redazione. Io sono Andrea Ferro, vi ringrazio appunto anche da parte mia per l'attenzione. Noi con Effetto Notte Estate ci risentiamo domani sera alle 18:30. Buona serata.